Ho visto una trasmissione televisiva a carattere scientifico che mi ha fatto riflettere. Alcuni studiosi volevano osservare il comportamento dell'uomo in situazioni nuove e anomale. Così, per realizzare il loro scopo, hanno portato alcune persone in una prigione fatta apposta per l'occasione. In questa prigione era in vigore un regime dittatoriale ed era interessante vedere le reazioni di queste persone. Più tardi, finito l'esperimento, hanno intervistato un giovane, il quale ha testimoniato di essere rimasto sorpreso della sua reazione di fronte a situazioni inconsuete e che non avrebbe creduto mai di poter fare certe cose. In effetti, qualsiasi uomo preso fuori dalla routine della sua vita e posto davanti a situazioni inconsuete è capace di un comportamento del tutto inaspettato. Noi prendiamo generalmente questo dato di fatto come una annotazione da riporre nel bagaglio della nostra conoscenza senza darle un grande peso. Ma se accettiamo questo aspetto e lo caliamo nella realtà di un matrimonio, allora qualche piccola perplessità, per non parlare di angoscia, scuote la serenità della nostra vita. Perché la notizia del comportamento inaspettato in una situazione nuova deve coglierci di sorpresa con sentimenti di inquietudine in merito al matrimonio? E forse una novità che la gente si sposi. Non è tanto il matrimonio ad essere una novità. La novità sta che spesso non pensiamo che il matrimonio sia una nuova situazione della quale nessuno ha fatto esperienza. A meno che ovviamente non si risposi, anche se comunque si presenteranno sempre delle novità. Proprio perché il matrimonio è una situazione nuova per tutti, è opportuno considerarlo sotto questo aspetto e vedere, se non prevedere, quali reazioni impensate si possono commettere. Certo, nessuno di noi penserà di avere delle reazioni assurde nell'ambito della novità del matrimonio, ma i frequenti divorzi, i divorzi nascosti, anche abitando sotto lo stesso tetto, la convivenza matrimoniale, subita e odiata, sono segnali che in effetti il matrimonio è la nuova situazione più sperimentata dalla razza umana, che è anche la più drammaticamente fallita. Mentre nella trasmissione televisiva la prigione era un esperimento a breve durata, un matrimonio che è un patto che dura tutta la vita, se viene vissuto come una prigione, è l'esperienza più disumana che possa esserci. Per quanto sia comune nella razza umana, il matrimonio è una situazione sempre nuova. E nuova perché innanzitutto non è più questione di vivere ma di convivere. Quando vivi da solo, se sei stanco puoi riposarti. Quando convivi devi tenere presente le necessità dell'altro o degli altri, se ci sono dei figli. Quando sei solo, la libertà di decidere è tutta tua. Quando convivi devi tenere presente anche le decisioni dell'altro. Quando sei solo, la tua vita può essere in qualche modo tua, cioè la puoi vivere anche all'insegna del tuo egoismo. Quando convivi devi dividere le tue necessità, i tuoi desideri, le tue ambizioni con qualcun altro. Proprio perché il matrimonio è una convivenza nuova e piena di impensabili situazioni, sposarsi è uno dei più grandi atti di fiducia che mettiamo in pratica. E cioè quello di credere a qualcuno che tra l'altro non conosciamo anche se pensiamo di conoscerlo, che ci dica di amarci e di volere il nostro bene. Che ne sappiamo noi del futuro? Se non siamo certi nemmeno di quello che avverrà tra 10 minuti, come possiamo fidarci di una testimonianza d'amore nei nostri confronti per tutta la vita? Che ne sappiamo noi della nuova situazione della convivenza? Di tanto in tanto penso a quella coppia di sposi in viaggio di nozze che avevo salutato una domenica mattina. Erano partiti come ogni coppia di sposi, pieni di un futuro gioioso. Ma nel ritorno della loro luna di miele ebbero un incidente stradale e lo sposino, per salvare la giovane moglie, sbatté la testa sulla fronte del vetro davanti e rimase completamente cieco. Questi sposini erano partiti già con delle prospettive di una convivenza a loro sconosciuta, ma inoltre ritornarono con una situazione che era terribilmente drammatica. Erano preparati questi sposini a questo evento? Avrebbe mai pensato la sposina che per tutta la vita avrebbe convissuto con un cieco? Era pronta a questa nuova situazione? E che dire di quei mariti che in seguito diventano ubriaconi e picchiano sistematicamente la moglie? E di quelle mogli che tradiscono il marito? E senza essere così drastici, cosa dire di quei coniugi convinti di possedere certe qualità e durante la convivenza scoprono di non averle? Scoprire che un marito o una moglie non vogliono avere una vera relazione con il loro partner è una esperienza che nemmeno un animale vorrebbe fare. Sposarsi significa buttarsi nelle braccia dell'incognito e dell'imprevedibile, due aspetti dai quali fuggiremmo terrorizzati se non si trattasse di voler convivere con la persona dalla quale si è convinti di essere amati. Dal punto di vista dell'imprevedibilità, sembra che una relazione matrimoniale sia una spietata trappola per degli ingenui. Ma non è così. L'istituzione del matrimonio è un dono di Dio sotto tutti gli aspetti. Sta solo a noi saper cogliere il positivo e ciò che arricchisce. Abbiamo detto che il matrimonio non è una trappola preparata da Dio per gli uomini, ma spesso rimane una trappola a causa dei nostri istinti naturali che sono rovesciati rispetto alla verità e al bene. Noi ci sposiamo innanzitutto perché pensiamo di aver trovato qualcuno che ci faccia felice. Se ci pensiamo bene, in fondo gli uomini e le donne sono tutte uguali, nel senso che tutti hanno una testa, due occhi, una bocca, due gambe, due piedi, degli organi genitali. Quello che ci spinge a scegliere una donna o un uomo fra tutti gli altri è che in quella persona noi troviamo caratteristiche che non troviamo in nessuno o nessun'altra, caratteristiche che ci piacciono e che ci fanno felici. E poiché queste caratteristiche sono uniche per farci felici, accettiamo di avere una relazione duratura, intima, per quanto essa limiti alcuni aspetti della nostra esistenza. Noi siamo anche coscienti che con il matrimonio ci imbarchiamo in una relazione a noi sconosciuta, ma le prospettive di gioia vere e presunte ci inducono di unirci con la persona che parrebbe poterci dare ciò di cui abbiamo bisogno e desideriamo. Questo in fondo è il vero motivo, o meglio il primo, a spingerci verso la scelta matrimoniale. Non occorre però molto tempo per scoprire in cosa consista la concreta novità della relazione che si è intrapresa. La sorpresa infatti giunge nella constatazione che anziché ricevere la felicità dalle attenzioni e cure del coniuge e attenderci di essere da questi amati, siamo noi i primi a dover dare ciò che per diritto sentiamo di dover ricevere. Ci sono ragazze che non vedono l'ora di sposarsi per ricevere la mattina una bella tazza di caffè dal proprio marito. Altre dal matrimonio si aspettano un marito premuroso, comprensivo, sempre disponibile. E così, nella nuova e imprevedibile situazione matrimoniale, queste ragazze scoprono che il caffè non solo lo devono fare loro, ma lo devono anche portare al marito a letto al mattino. Altre ragazze scoprono che se si vuole tirare avanti la baracca, devono farsi in quattro e spesso fare anche ciò che spetterebbe al marito. In questo modo in un matrimonio le ambizioni vengono ribaltate e tutto ciò che si desidera ricevere da una relazione matrimoniale sta a noi darlo. Il matrimonio è il banco di prova più difficile per il nostro egoismo. Fondamentalmente la novità del matrimonio consiste nel fatto che quando ci sposiamo dobbiamo sapere e ricordarci che la nostra unione non è intesa perché qualcuno ci faccia felice, ma per far felice qualcuno. Questo solo aspetto toglie alla radice ogni nostro presunto o vero diritto. Uno degli scontri più frequenti nella convivenza matrimoniale ricorre proprio in merito ai diritti, perché di diritti ne hanno tutti gli sposi, ma con l'andare del tempo nella vita matrimoniale si scopre che accettare la mancata pretesa di ricevere dei diritti presunti o veri è il segreto di una convivenza serena e pacifica. Un marito non ha forse il diritto di avere una moglie che sia un aiuto convenevole? Non è stata fatta la donna per questa ragione? E se invece di essere un aiuto la sposa si comporta come un capo? Se invece di condividere l'esistenza con il marito si comporta e vive come se fosse ancora nubile? Non è forse questa situazione matrimoniale non solo nuova ma anche capovolta? Non ha forse una moglie il diritto di avere un marito che la curi teneramente e che sia comprensivo nei confronti delle sue esigenze? L'uomo non è forse il capo della donna, cioè colui che vive da responsabile del bene morale e spirituale di tutta la famiglia? E se il marito non riceve i suoi diritti, o la moglie i suoi, se il matrimonio non è solo una situazione nuova, ma anche una convivenza senza relazione, cosa fare? Ad una situazione nuova, nuovi atteggiamenti? Se prima il mio obiettivo era che l'altro mi facesse felice, ora scopro che devo metterci tutto il mio impegno a far felice il mio coniuge. E si sa che per far felice l'altro spesso ne va parte della mia felicità. In un matrimonio secondo il piano di Dio, la felicità sarebbe cercata e costruita assieme da ambo gli sposi. In una reciproca donazione e rinuncia. Ma quando uno dei coniugi non collabora, allora la responsabilità della situazione cade su chi ha più discernimento, sia morale che spirituale. Gesù disse che di più sarà richiesto a chi più è stato dato. In un matrimonio non vi sono metodi universali, perché ogni sposa e ogni marito hanno delle necessità uniche, e quello che può andare bene per uno non va necessariamente bene per l'altro. Resta però un principio universale, cioè il principio dell'amore, che è desiderare di far felice comunque il proprio partner. Questo è il modo cristiano di vivere il matrimonio. E è vero che il matrimonio è una situazione nuova per tutti, ma per tutti Dio ha dato la possibilità di viverla nel modo migliore, anche se il meglio di Dio non combacia sempre con il nostro meglio. Se Dio avesse voluto, non avrebbe creato una convivenza matrimoniale sempre nuova. Ma lo ha fatto perché una nuova, costante e irrinunciabile situazione matrimoniale potesse darci la possibilità di conoscere gli infiniti e imperscrutabili aspetti sempre nuovi del carattere del Dio Trino. Aprile 2005. Ellero.